Il numero 5. Il quinto passo ci chiede di uscire dalla zona di comfort e fare un ulteriore salto nel vuoto, abbandonare la stabilità per lanciarci nella sperimentazione alla ricerca di una consapevolezza più profonda. Siamo nel chakra della gola, legato alla comunicazione e all'espressività ed è bloccato dalla menzogna e da tutto ciò che ci allontana dalla nostra verità. La quinta lamina dei tarocchi è il Papa, che rappresenta il perseguimento dell'ideale e il ponte mediatore tra spirito e materia. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi, al di là del precetto religioso patriarcale, la prima delle virtù teologali che incontriamo è la fede, quella fiducia assoluta che nonostante tutto ci sprona a continuare con fermezza e sicurezza il percorso. Il peccato capitale corrispondente è l'ira, conseguenza del controllo e delle aspettative disattese, quella rabbia furente che brucia tutto ciò che trova davanti a sé. La domanda che poniamo alle guide è cosa comporta questo ennesimo salto nel vuoto? Nella sedicesima delle poesie miste, Hadweg descrive il quinto appellativo della Minne, la signora amore, come la rugiada che acquieta la fiamma, con una brezza di unificazione. Con questo nome viene distinto il momento della passione e dell'estasi del nome precedente da quello dell'unità e della fusione degli opposti, portandoci l'immagine dell'incontro tra fuoco e acqua che si sublimano in vapore eterico. Dice Hadweg, il furor d'amore è un ricco beneficio e chi lo riconosce nulla più dovrebbe chiedere, ciò che prima erano due, ora è uno. Sebbene il tema dell'unione sarà quello del prossimo passo, l'eloquente antitesi poetica dei poli opposti a lei tanto cara si fonde nell'unità e nell'alternarsi di fuoco e rugiada, diventando uno dei principali insegnamenti della scuola dell'alto amore. Il sapersi nude e manchevoli è la chiave di ogni gioia e liberazione. È la mancanza che più che altre cose li sazia e che meglio di tutto li appaga. La mancanza della fruizione è essa stessa la più dolce fruizione, scrive Hadweg. Per Beatrice il quinto modo è l'amor furente, l'uragano che con veemenza desta l'anima, frantuma il cuore, divora il fisico. Il desiderio di luce, intimità e purezza è insaziabile perché non c'è appagamento. Più l'anima viene attirata e stimolata dalla Minne, la signora amore, più la brama di questo amore cresce senza mai placarsi né saziarsi, smisurato e opprimente come la violenza della tempesta e come una lancia che trafigge ripetutamente il cuore per salire verso la gola e il cervello. Cito dal suo libro: l'amore per Dio si fa talmente smisurato e soverchiante nell'anima come fuoco, la marchia nel cuore, che è come se il cuore fosse trafitto da ogni dove, con ferite riaperte e lacerate ogni giorno con dolore terribile e sempre più forte. Ella sente le vene scoppiare e il sangue ribollire, è come se le si frantumasse il midollo e le cedessero le gambe. Il suo seno si fonde e la sua gola si secca, nel corpo e nelle membra avvampa la violenza sovrana dell'amor furente. La descrizione cruda e dettagliata di Beatrice si affianca all'esperienza di Metchill von Magdeburg e di Hadweg, e comune anche l'utilizzo del termine Ohrwürth, amore furente o follia d'amore, descritto come una tempesta di collera e passione che con la sua violenza annulla ogni distanza e unisce ogni cosa. La fiamma divampa e purifica, così come il momento di estasi trasforma l'anima. Anche Margherita utilizza in diverse occasioni la metafora del fuoco dell'unità, consueta nella letteratura religiosa medievale, ma nell'opera mistica assume una connotazione non solo spirituale, ma anche fisica, unendo insieme tutti i modi di esperire l'amore. Dice infatti Margherita: quest'amore di cui parliamo è l'unione degli amanti e fuoco di brace che arde senza soffiare. Colui che arde non ha freddo e colui che annega non ha sete. Ora tale anima arde talmente nella fornace del fuoco d'amore che è divenuta propriamente fuoco, per cui non sente affatto il fuoco, poiché è fuoco in se stessa, per la virtù d'amore che l'ha trasformata in fuoco d'amore. Nessuna natura del fuoco attrae in sé materia alcuna, poiché fa di sé e della materia una cosa sola, non due, ma una. Nello specchio delle anime semplici, però, il fuoco non è il fulcro del quinto stato di grazia, ma lo è l'anima che abbandona la propria volontà per affidarsi totalmente a quella divina. Ciò la libera interamente dal desiderio e dall'orgoglio in cui Dama Amore la ricolmava negli stati precedenti, facendola sentire tanto leggera e fiera di sé. Grazie all'intervento di Dama Carità, ora l'anima diventa nobile e semplice, consapevole del baratro in cui è caduta e della nullità che è, poiché la sola essenza è l'amore. In lei, Dama Ragione soccombe a Dama Amore, che la priva di se stessa per diventare unità con il tutto. Qui avviene la terza morte mistica, quella dello spirito per rinascere al divino. Questa morte porta con sé il fiore dell'amore della divinità. Non c'è mediazione alcuna tra tali anime e la divinità, e neanche lo vogliono. Trascendere la dualità vuol dire conoscere le due nature della bontà divina e della malvagità umana. Esse sono assolute in sé, ma per mezzo dell'amore si trasformano e si fondono. Scrive infatti Marguerite: quest'anima non sa che una cosa, ossia che non sa niente, e così non vuole che una cosa, ed è che non vuole niente, e questo niente sapere e niente volere le danno tutto e le consentono di trovare il tesoro segreto e nascosto che è eternamente racchiuso nella Trinità. Nelle quinte stanze del castello interiore di Teresa, l'anima sperimenta l'orazione di unione, ossia stati molto intensi in cui è sradicata da corpo e materia e la sospensione del pensiero diventa automatica. In questi brevi attimi, la certezza dell'unione con lo sposo divino è indubbia, impressa saldamente nella memoria, e il piacere che ne riceve è inconcepibile per la ragione e per l'intelletto. Anche Teresa sostiene che per entrare in queste mansioni e sperimentare l'unione è necessario conformare la volontà personale a quella divina. L'anima, come un baco da seta, tesse e si costruisce la casa in cui muore volontariamente, imitando la vita di Gesù. In questi stati estatici si trasforma in una farfallina bianca che sperimenta la grandezza divina. Tanta gioia corrisponde anche ad uguale sofferenza dell'anima che si interroga ininterrottamente sul giudizio e sulle invidie. Il peso degli affari terreni è vissuto come l'obbligo di sopportare ciò che non è affine alla volontà divina, causando insostenibile insoddisfazione e desiderio di morire in Dio. Anche Advei sostiene in questi attimi: vivere mi fa orrore. Queste pene però passano presto, così come le gioie, perché non giungono ancora nel profondo dell'anima e non richiedono la sospensione dei sensi e delle potenze o talenti. Teresa invita ad agire per volontà divina senza perdere la speranza, percorrendo la strada dell'amore di Dio che si rispecchia nell'amore verso il prossimo e nell'esercizio delle virtù, così come Marguerite ci ha insegnato al terzo passo. Avverte anche di rimanere in guardia e ben attente se non si fanno progressi in queste stanze, perché arrivate già così in alto, non si può che progredire. Dice Teresa che l'amore non è mai ozioso. Scrive Edith Stein nel Castello dell'Anima: esistono quindi due strade per unirsi a Dio e giungere così alla perfezione dell'amore. La prima è un salire faticoso con le proprie forze, ovviamente con l'aiuto di Dio. La seconda è un essere trascinati in alto che risparmia al soggetto molto lavoro, ma la cui preparazione e traduzione in atto pone pesanti richieste alla volontà. Secondo tutte e quattro le mistiche, il salto nel vuoto del quinto passo è quello del superamento della dualità, affidandoci totalmente al nostro sentire, anche quando è in contrasto con ciò che ci viene detto ed insegnato. L'unione degli opposti si sublima nel concetto di mancanza di Advaith, che si avvicina a quello di miseria di Teresa e di malizia di Marguerite. Come abbiamo visto, nel secondo passo, il dare e il ricevere si fondono nella consapevolezza che ciò che ci viene dato è quello che veramente ci serve per la nostra crescita spirituale, mentre ciò che ci viene tolto ci libera dalla pesantezza e dall'accumulazione, condizione necessaria per alleggerire il cammino verso il prossimo passo. È eloquente l'immagine di Marguerite che ci chiede di morire tutte le morti mortali in nome dell'amore, allo scopo di gustare pienamente la vita in libertà e semplicità. A questo punto del percorso, Dama Ragione si è inchinata a Dama Fede e Dama Amore, e queste due dame ardono talmente tanto dentro di noi che non possiamo fare altro che saltare.